Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Raimondo, disse Lorenzo, se consultassi unicamente il mio onore, tutto il vostro sangue non basterebbe a lavare l'onta di cui avete macchiato il nostro nome, ma le circostanze vi assolvono, e per quanti sforzi facessi, non potrei mai vedere in voi un nemico. A questo punto, Lorenzo pensò che mai un'occasione migliore si sarebbe presentata di perorare presso Don Raimondo la causa di Antonia. Il marchese cascò completamente dalle nuvole nel sentire di questa parente che non si conosceva. Certo non si sarebbe tirato indietro, e Lorenzo aveva fatto benissimo a garantire per lui e a crederlo pronto a riconoscere la cognata e sua figlia. Lo incaricò di rassicurarle al più presto e di trasmettere loro, da parte sua, tutto il denaro di cui potevano avere bisogno. Finalmente si lasciarono e Lorenzo raggiunse rapidamente Palazzo Medina. Arrivato a casa, Lorenzo, nonostante l'ora estremamente mattutina, non trovò niente di più urgente da fare che chiedere la posta. Gli consegnarono un enorme pacco di lettere, ma la sola che veramente aspettava, ahimè, non era tra quelle. Leonella non aveva ancora avuto il tempo di scrivergli, ma la sua furia di impossessarsi del cuore di Don Cristobal non le permise di aspettare oltre l'indomani per fargli pervenire sue notizie. E al risveglio, Lorenzo trovò sul suo comodino da notte questo biglietto. Bel cavaliere, non vi dimentico. E se questa notte è stata lunga per voi, credete che lo è stata ancor più per me. Ma, parola di vergine, vi giuro che non è di peso da me mantenere più rapidamente la mia promessa. Non so come informarvi della strana accoglienza che mia sorella ha fatto al desiderio da voi così cortesemente espresso di renderle visita. Mia sorella è un essere stravagante e quali che siano i benefici che può aspettarsi da un incontro con voi, mi ha proibito di rivedervi e di indicarvi il nostro alloggio. Ma il suo gioco è troppo trasparente. È la gelosia che parla in lei. Mi sento perciò autorizzata a passare sopra il suo divieto. Vi devo confessare, perché voglio essere franca con voi, che il desiderio di rivedere il seducente Don Cristobal è per qualcosa nella mia premura. Abitiamo in via San Iago, a 4 porte da Palazzo Albuquerque e quasi di fronte al barbiere Miguel Coella. Vi basterà chiedere di Doña Elvira d'Alfa. Tutti la conoscono nel quartiere, ma vi prego, quando sarete tra noi, non una parola che possa far capire a mia sorella che vi ho scritto. Se per caso vedete il conte Osorio, ditegli, arrossisco nel confidarvelo, che la sua presenza farebbe trasalire di piacere il cuore della tenera Leonella. Aveva firmato con inchiostro rosso, per meglio rappresentare l'incandescenza della sua emozione. Lorenzo aveva appena finito di leggere la lettera, che saltava di nuovo giù dal letto, si vestiva di corsa e si precipitava alla ricerca di Don Cristobal. Ma per quanto fosse mattiniero non gli riuscì di acciuffarlo, così che si presentò da solo in casa di Doña Elvira, con grande disappunto di Leonella. Doña Elvira fu piuttosto allarmata nell'osservare l'emozione che aveva colorito il viso di sua figlia al solo annuncio del nome di Lorenzo, e la spiacevole impressione crebbe al suo ingresso. coi suoi occhi gai e splendenti, il portamento nobile, quell'aria di distinzione innata sparsa in tutti i suoi modi, vestito con regale eleganza. Lorenzo sembrò a Donia Elvira un ospite enormemente pericoloso per la virtù di Antonia e decise di trattarlo con cortesia ma di non accettare i suoi servigi e fargli invece sentire che le sue visite sarebbero state sgradite e imbarazzanti per lei. Tuttavia, Lorenzo si sedette con la più grande disinvoltura. Si affrettò a portare il discorso su Don Raimondo e informò la madre di Antonia che il giovane cognato era disposto a riconoscerla senza indugio come la vedova di suo fratello e a fare per lei tutto quello che il dovere gli imponeva. Questa notizia sollevò Elvira di un gran peso. Ringraziò Lorenzo con molto calore, ma non lo invitò a rinnovare la sua visita. Tuttavia, siccome Lorenzo sollecitava l'autorizzazione di venire di tanto in tanto a informarsi della sua salute, Elvira non osò negargliela, considerando l'amicizia che lo legava al marchese, e Lorenzo lasciò la casa al settimo cielo. Rimaste sole, Elvira e sua figlia non dissero niente per qualche tempo. Infine, Elvira si decise a parlare. «Che ragazzo incantevole, Antonio. È difficile rimanere insensibili al suo fascino. Devo dire che mi ha profondamente colpito. Sei rimasta a lungo con lui, ieri nella cattedrale. Non mi ha lasciato nemmeno per un momento, finché sono rimasta in chiesa. Mi ha ceduto la sua sedia ed è stato con me di una cortesia straordinaria. Davvero? Sono stata mille volte sul punto di parlarvene e il suo nome mi bruciava le labbra, ma perdevo coraggio ogni volta che volevo pronunciarlo. Ho letto nel tuo cuore come in un libro, figlia mia. Non sei ancora molto abile a dissimulare. Questo Lorenzo, credimi, è un pericolo per la tua pace e ha già fatto abbastanza strada nel tuo cuore. Non credo di azzardare troppo dicendoti che il tuo affetto è ricambiato. Ma quali possono essere, pensaci, le conseguenze di un vostro legame? Sei povera e senza amici, Antonia. Lorenzo è l'erede del duca di Medina Celi e quand'anche le sue intenzioni fossero irreprensibili, mai suo zio consentirà alla vostra unione. Una triste esperienza mi ha insegnato a quali pene si condanna la donna che entra in una famiglia che la respinge. Lotta perciò contro la tua inclinazione per quanto ti costi e cerca di vincerla. Nel frattempo il marchese della Citernas non era rimasto inattivo e a mezzanotte una carrozza tirata da quattro cavalli portava lui e Lorenzo davanti al portello che si apriva sui giardini del monastero. Un orologio suonò le ore mentre aprivano la porta. Erano puntuali e Agnese doveva già aspettarli. Tesero l'orecchio nella speranza di sorprendere il suo passo, ma nessun rumore si faceva sentire. Un'angoscia li soffocava, che diventò sgomento quando videro il giorno invadere il fogliame. Dovevano andarsene subito se non volevano farsi scoprire. La superiora si era ben cautelata e il marchese non capì di essere stato già scoperto. Così, totalmente ignari dell'orribile sorte riservata ad Agnese, il marchese e Lorenzo dovettero allontanarsi in fretta e furia, sbalorditi di questo nuovo insuccesso. L'indomani mattina, Lorenzo corse al monastero e chiese che gli venisse condotta in parlatorio la sorella. La superiora apparve alla grata con una maschera di tristezza. Lo informò che Agnese stava malissimo e non poteva lasciare la sua cella. Lorenzo non ci volle credere e rinnovò le insistenze chiedendo che gli fosse concesso di visitarla nella cella se veramente non poteva venire fino al parlatorio. Davanti all'abominio di una simile pretesa, la badessa fu colta da un leggero urto di vomito e si segnò rapidamente mostrando così con quale orrore considerava la possibilità che un uomo violasse i segreti della sua santa casa. Lo pregò di non insistere, di tornare l'indomani, poiché sperava che allora Agnese si sarebbe sentita abbastanza in forze per trascinarsi fino alla grata. Lorenzo tornò l'indomani di primo mattino. Agnese non era migliorata e il medico proibiva le visite. Lorenzo si spazientì, esplose, minacciò. Non ci fu niente da fare e dovette tornarsene disperato dal marchese, il quale aveva messo in opera tutti i mezzi per scoprire che cosa c'era sotto. Don Cristobal, cui fu affidato l'incarico, riuscì a entrare nelle grazie della vecchia portiera di Santa Chiara, ma la vide aggrondarsi al primo accenno a quella storia e non ne poté cavare niente. Il marchese era pazzo di dolore e Lorenzo si rodeva d'ansia. Erano entrambi persuasi di essere stati traditi e che la malattia di Agnese fosse una finta, ma non sapevano come fare per strapparla dalle grinfie della sua implacabile nemica. Lorenzo tornò al monastero tutti i giorni per ricevere sempre la stessa disperante risposta. Le cose andarono avanti così fino al giorno in cui il marchese ricevette una lettera dal cardinale duca di Lerna. Roma si era pronunciata. Agnese era sciolta dai suoi voti e restituita definitivamente alla famiglia. Questa notizia tolse loro gli ultimi scrupoli. Fu deciso che Lorenzo sarebbe andato a trovare la superiora con la bolla pontificia in mano e avrebbe chiesto l'immediata restituzione della sorella. Davanti a quel mandato tutto doveva cedere. Non c'erano più obiezioni possibili contro il suo diritto a portarsi Agnese a Palazzo Medina. Stabilì di fare questo passo l'indomani mattina. Sollevato dall'ansia per la sorella, Lorenzo pensò che si poteva un po' occupare dei suoi affari. Andò da Elvira, che lo accolse cortesemente, ma al suo arrivo Antonia si ritirò nella sua stanza con la zia e Lorenzo rimase solo con la padrona di casa. «Non credete», gli disse Elvira, «che voglia mostrarmi ingrata o che dimentichi il grande favore che ci avete reso, ma la vostra presenza mi spaventa e non vorrei che diffondesse nel cuore di mia figlia dei sentimenti che farebbero la sua infelicità. Perdonatemi se vi confido i miei timori, ma nell'interesse di Antonia vi devo chiedere di non tornare più qui». «Sono molto sensibile alla vostra franchezza», rispose Lorenzo. «Eppure penso che le vostre prevenzioni cadranno quando mi avrete ascoltato. Quello che provo per vostra figlia non è un capriccio passeggero. È un amore duraturo e profondo e sono assolutamente deciso a farne la mia sposa. Benché non sia ricchissimo, ho delle speranze che mi danno il diritto di pretendere alla mano della figlia del conte della Citernas». Elvira lo interruppe. «Mio caro Lorenzo, questo titolo pomposo vi fa perdere di vista la modestia delle nostre origini. Antonia deve apparirvi meno come la figlia del conte della Citernas che come la discendente dell'artigiano Torribio d'Alfa. E di fronte alla diversità della nostra posizione e di quella del nipote erede del potente duca di Medina, non vedo una sola speranza che vostro zio approvi questa unione e prevedo che le conseguenze del vostro affetto sarebbero funeste alla pace della mia bambina. Siete male informata, cara signora, se pensate che il duca di Medina condivida i pregiudizi della gente sulle mésalliances. Ho tutte le ragioni invece per credere che non si opporrà a questo matrimonio e quando anche lo facesse sono padrone dei miei beni e basteranno a mantenere vostra figlia. Vi assicuro che cederò senza un sospiro di rammarico il ducato di Medina per la sua mano». «Signor», concluse, «non ho più niente da dirvi. e penso che vi siano ora chiare le ragioni che mi costringono a pregarvi di non tornare più. Una sola domanda, signora, e vi lascio. Se il duca di Medina approva il mio amore, posso sperare che i miei desideri non saranno più respinti da voi né dalla bella Antonia? Sarò franca con voi, don Lorenzo. Avete fatto su mia figlia un'impressione troppo forte. Ed è nel timore di vederla crescere che sono costretta a rompere ogni rapporto con voi. Se il duca, vostro zio, dà il suo consenso, potete contare sul mio e su quello di mia figlia. Altrimenti non sperate niente da noi. Che la vostra famiglia vi autorizzi a chiedere la mano di Antonia e la mia porta vi è aperta. Se rifiuta il suo consenso, avrete sempre la mia riconoscenza e la mia stima, ma non ci dovremo più vedere. Lorenzo sentì che il colloquio era terminato e si alzò per prendere congedo. Baciò rispettosamente la mano che Elvira gli tendeva e si diresse al convento. Il giorno sorgeva appena e già Lorenzo era al monastero col mandato in mano. Le monache erano a mattutino e gli toccò aspettare che il servizio fosse terminato. Finalmente la badessa apparve alla grata del parlatorio. Lorenzo chiese di vedere subito Agnese. La vecchia ipocrita assunse la sua aria più contrita e afflitta per annunciargli che la povera bambina peggiorava da un'ora all'altra e che i medici non potevano più rispondere della sua vita se si insisteva a volerla vedere. Lorenzo non si lasciò gabbare dalle smorfie della badessa e poiché la sua aria afflitta cominciava a esasperarlo, non volle più privarsi del piacere di esibirle la bolla papale. E le ingiunse di condurgli immediatamente, malata o no, la sorella. La badessa prese umilmente il foglio che Lorenzo le tendeva, ma ne aveva appena decifrato il contenuto che la rabbia spazzò via tutta la sua compunzione. Fissò su Lorenzo uno sguardo sanguigno e velenoso. La sua faccia prese un'orrenda tinta scarlatta e con la bocca tremante, la voce strozzata, balbettò: «Certamente, signor. L'ordine è tassativo e in coscienza mi è vietato sottrarmici, ma anche volendolo non lo potrei perché questo non è più il mio potere». Lorenzo soffocò un'esclamazione di incredulità e di sorpresa, ma lei subito riprese: «Vi ripeto, signor, che non dipende più da me conformarmi a quest'ordine. Perché? Compassione dei vostri sentimenti di fratello. Volevo rivelarvi soltanto poco per volta la terribile verità. Ma non ho più scelta e quest'ordine che mi ingiunge di rendervi subito Agnese mi costringe a informarvi senza circonlocuzioni che è morta venerdì scorso». «Come?» strepitò furibondo. «Soltanto 5 minuti fa mi dicevate che era ancora in vita, benché in uno stato forse allarmante. Fatemela vedere subito. La vedrò a qualunque costo e le vostre scappatoie non vi serviranno a niente». «Per il Dio che ci giudica», rispose la badessa, «vostra sorella è morta. E che interesse avrei, per favore, a trattenere vicino a me quella prostituta? Quando saprete la gravità dei suoi delitti, vi rallegrerete che una morte esemplare le abbia facilitato l'espiazione. Si è ammalata giovedì scorso, dopo essere stata a confessarsi nella cappella dei Cappuccini. La sua malattia era accompagnata da strani sintomi, ma non voleva assolutamente rivelarne il motivo. E la Vergine sia lodata, eravamo troppo ignoranti per indovinarlo. Giudicate quindi della nostra costernazione e del nostro orrore quando l'indomani partorì un bambino nato morto che seguì immediatamente nella tomba». «Ma come? Signore, non inorridite? Nel vostro viso non leggo nessuna sorpresa, nessuna indignazione. La sua infamia vi lascia indifferente. La conoscevate e le conservavate il vostro affetto? In questo caso la mia pietà è superflua, posso solo ripetervi che sono nell'impossibilità di obbedire agli ordini che mi trasmettete, per quanto dall'alto vengano, e per provarvi la verità di quello che affermo, continuò brandendo il crocifisso che le pendeva sul petto, alto sopra la sua testa, con un gesto pieno di sacra collera. Per l'agonia stessa di Cristo nostro Salvatore, che questa mano che lo tocca si secchi, se da 3 giorni vostra sorella non è sotterrata. Poi riportò il crocifisso alle labbra, lo baciò e, voltando le spalle a Lorenzo, si diresse verso la porta. Lorenzo se ne andò sconvolto dal dolore, ma la disperazione di Don Raimondo giunse a una vera follia. Rifiutò assolutamente di ammettere che la povera Agnese fosse morta. Questo divenne la sua ossessione e nessun ragionamento poté farlo rinunciare alla speranza di ritrovarla. Lorenzo aveva ancora nelle orecchie lo spaventoso giuramento della badessa e, pur credendo sua sorella vittima di qualche colpevole tresca, finì col rassegnarsi all'idea di non rivederla mai più. Del resto, per quanto soffrisse della scomparsa di Agnese, la perdita della sorella lo addolorò, certo, sinceramente, ma non fu l'ultimo motivo di sofferenza che le circostanze lo costringessero a ritardare per qualche tempo di parlare di Antonia al duca. I suoi emissari non perdevano di vista la porta della sua amata e lo informavano fedelmente dei suoi andirivieni. 2 mesi trascorsero senza portare nessun cambiamento. Il marchese era il solo che conservasse la speranza di rivedere Agnese altrimenti che morta. Lorenzo decise di confidare allo zio il suo amore e, conoscendo la fretta che aveva di vederlo sposato, non dubitò un istante del successo della sua impresa.